venerdì sera ci è arrivata una mail, evidentemente la nostra storia è costellata di mail, che annunciava che stamattina sarebbe iniziato di fatto quello che è il processo di smantellamento dello stabilimento, poi presentato in maniera abbastanza ipocrita dall'azienda come il ritiro di rifiuti. In realtà in questo momento tutto l'ex magazzino dell'azienda e l'azienda stessa è potenzialmente un rottame da rivendere a ferro, e quindi di fatto è l'inizio dei lavori dello smantellamento senza nessun tipo di trattativa su invece gli strumenti per far ripartire l'azienda. Quindi siamo sempre fermi allo schema del fondo finanziario, nonostante sia cambiata la proprietà, svuotare lo stabilimento e gettarci in cassa integrazione. La proprietà doveva presentare un piano industriale che non è mai arrivato? Che oggi questa proprietà non abbia un piano industriale, che non abbia accesso a una cassa integrazione di cui manca anche soltanto una causale, forse non ha nemmeno una linea di credito bancario sugli investimenti, non ha presentato la documentazione per accedere a un accordo di sviluppo con le istituzioni, non lo diciamo noi, ormai non c'è nessuno che possa dire il contrario. Di conseguenza, se hai un'azienda ferma che brucia liquidità e non fai nulla di fatto per riportare il lavoro, il tema è se stai pilotando o meno deliberatamente il fallimento dell'azienda. Questa mattina però i camion non si sono presentati. Non si sono presentati, ce lo aspettavamo, perché questa è una tattica di logoramento in cui ogni tanto ci toccano un po' col bastoncino, come si fa con gli animali fermi, per vedere se sono ancora vivi e se mordono. Finché noi reagiamo, il bastoncino non si trasforma mai in una mazza. Quando non reagiremo più, tutto è possibile, compreso anche lo sgombero del presidio e, diciamo così, un attacco frontale allo stabilimento. Attualmente, purtroppo per fortuna, non sta a me dirlo, il nemico invisibile, lo stesso sistema che ci lascia nell'immobilismo e nel logoramento, contando che piano piano ci licenziamo da soli e ce ne andiamo via logorati da questa situazione, o sperando che a un certo punto la stanchezza ci tolga la lucidità e che iniziamo a dividerci tra di noi, e pur di toglierci da questa situazione cediamo per stanchezza. Questa mattina al presidio avete fatto anche un'assemblea, che cosa avete deciso? L'assemblea è stata fatta più che altro con solidali, per spiegargli di nuovo la situazione, con solidali e giornalisti. Tra di noi l'assemblea è permanente da 16 mesi, quindi siamo riuniti ieri pomeriggio, siamo riuniti stamattina per una questione tecnica sulla nostra messa a disposizione, continueremo a riunirci oggi pomeriggio. Il messaggio che ci preme dare è un grazie a tutti coloro che sono qua, ma che la lotta è ancora lunga, e che se contemporaneamente non diamo forza alla nostra progettualità attraverso la campagna per la fabbrica pubblica socialmente integrata e alla società operaia mutuo soccorso Insorgiamo che stiamo creando, la lotta si perderà, perché attualmente qua lo scontro è già vinto, perché noi la fabbrica la presidiamo a 16 mesi e, come si è visto, ancora nessuno riesce a mettere in discussione questo fatto. Riportare il lavoro, rimetterla in moto, rimetterla in moto collegandoci alle reti solidali per la giustizia climatica, rivendicando soldi pubblici e pubblica utilità, è tutta un'altra cosa ed è un percorso molto più lungo e molto più difficile. Per la fabbrica pubblica, per questo vostro progetto, cosa servirebbe, come dire, l'impegno del governo? Banalmente ci vorrebbe l'intervento pubblico di un governo che oggi si dice sovrano, ma in realtà sovrano non è, sono servi dei servi dei meccanismi finanziari e del grande capitale, nella misura in cui loro stessi dicono di non avere strumenti per intervenire. Quindi non lo dico io, noi continuiamo a proporre il grande intervento pubblico, una politica industriale pubblica, il polo pubblico della mobilità sostenibile, e di mettere questo stabilimento a servizio di questo. Nel frattempo non stiamo fermi con le mani in mano, non siamo uno slogan o un volantino. Attraverso lo statuto della società operaia di mutuo soccorso che stiamo provando a depositare, abbiamo anche l'ambizione di riappropriarci di altre forme di autorecupero, se si vuole anche non industriali, dal tema della mensa popolare, arrivando fino alla possibilità di partecipare a dei bandi, di metterci in contatto con delle start-up, di sviluppare azionariato popolare, non come soluzione del problema, ma come leva. Per dimostrare che qua non c'è nessuno che sta con le mani in mano, che il lavoro noi non lo elemosiniamo, il lavoro siamo noi, e noi siamo in grado di rimetterci al lavoro.